Lo Stivale del Rock. Questa settimana, Marco Maurizi. Ciao a tutti gli amici di Spazio Radio. Un saluto caloroso agli ascoltatori dello Stivale del Rock. Sono Marco Maurizi, un compositore e polistrumentista romano, e oggi sono qui per presentarvi il mio nuovo album, Journey to the Center of the Progs. Per me fare musica ha sempre significato unire tutto quello che amo. Da un lato la limpidezza melodica dei Beatles e dei Genesis e dall'altro la follia sperimentale di Frank Zappa e dei King Crimson. La mia ricerca parte da lontano, dai primi anni 2000 nella scena underground romana con i Lendormen, un duo impro noise con cui ho pubblicato diversi album in cui esploravo il lato più radicale del suono. Da lì sono poi passato attraverso diverse formazioni alternative rock per le quali ho scritto e cantato canzoni in cui emergeva l'aspetto più energetico e anche melodico della musica che amo. Da un paio di anni ho iniziato il mio percorso solista con dischi che provano a offrire una sintesi di questo viaggio ed ecco il perché del mio ultimo lavoro che si intitola proprio Journey to the Center of the Progs, un viaggio al centro della musica prog. È un omaggio alle band che amo, ma è anche un manifesto. Il prog per me è uno spazio di libertà totale che ci spinge oltre i limiti della musica commerciale e radiofonica. È un lavoro che porto avanti da una vita e che ha preso forma grazie al supporto di tanti amici musicisti che in questi anni mi hanno aiutato a realizzare il mio progetto, mettendo il loro talento al servizio di queste composizioni. Spero che questo viaggio tra melodia e ricerca vi incuriosisca. Vi lascio ai brani che ho scelto per voi. Un grazie immenso a Spazio Radio e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. The Destruction of Sennacherib, Marco Maurizi. Forged in stone, too heavy to be known. Ashes fall, stones we recall, echoes rise, cities breathe. Ashes fall, stones we recall, echoes rise, cities breathe. Ashes fall, stones we recall, echoes rise, cities breathe. Ashes fall, stones we recall, echoes rise. The Girl with the Tank Eye, Marco Maurizi. She walks in winter corridors, banners made of steel. She moves to folds of drifting cloth, frozen to conceal. She drifts by mirrors deep as smoke, treaties start to burn. She hears around behind the dusk, waiting to return. She feels a distant humming rise in ranks. Thank you for the tanks. Small, uncertain. She drifts inside a turret glare, glass against the night. She stands as all her phantom beasts fading out of sight. She feels the echoes circling back in ranks. Thank you for the tanks. Thank you for the rice. Thank you for the dream of no tomorrow as we die. Thank you for the plans. Thank you for the lights. Thank you for the nightmare and the sorrow and the lies. Judges and Foxes, Marco Maurizi. Abbiamo trasmesso lo Stivale del Rock. Questa settimana, Marco Maurizi.